mangiare. La montagna là è la strada che piano vien giù tra i pini e il sole. Un paese mediterraneo da scoprire, mediterraneo da pregare. Siedi qui e getta lo sguardo giù tra gli ulivi, l'acqua è scura quasi blu. Just